tutti i venerdì dalle 13 alle 14.30 su Eustachio, Onda Rossa, Quar, Wombat. Quattro radio autogestite trasmettono in simultanea Ponte Radio, uno spazio di collegamento tra radio auto-organizzate. Terza puntata di Ponte Radio, lo spazio collaborativo costruito da Radio Eustachio, Radio Onda Rossa, Radio Quar e Radio Wombat e che va in onda sulle quattro emittenti sorelle ogni venerdì dalle 13 alle 14.30. Proseguiamo l'approfondimento sulla lotta del popolo palestinese e sull'emergenza umanitaria che vivono Gaza e i territori occupati e anche sulle iniziative di solidarietà. Dall'8 ottobre dello scorso anno, dalla dichiarazione dello stato di guerra da parte di Israele in conseguenza dell'attacco lanciato da Hamas, il bilancio ha superato il numero di 23.000 persone uccise dall'esercito israeliano. Più di 12.000 sono bambini. Molti altri, lo denuncia l'UNICEF, sono stati sottoposti ad amputazioni e hanno subito ferite gravi. Oltre 17.000 bambini ora non sono accompagnati o sono separati dalle loro famiglie a causa della guerra. Israele impedisce il regolare afflusso di viveri per una popolazione oramai ridotta alla fame, così come di dispositivi sanitari e chirurgici. Le immagini e le testimonianze che arrivano dalla Palestina non sembrano fermare il piano genocida israeliano. Due ministri del governo di estrema destra hanno invocato apertamente la pulizia etnica, affermando come, con 100.000 o 200.000 arabi invece di 2 milioni, la discussione su cosa fare il giorno dopo la fine della guerra sarebbe completamente diversa. Il gioco dei distinguo semantici condotto da esponenti politici e dalla quasi totalità dei media mainstream, l'aver spostato al 7 ottobre le lancette di un conflitto che data dalla fondazione di Israele non cambia lo stato delle cose. Sappiamo bene quali sono state le politiche di discriminazione e segregazione politica, civile e geografica condotta dai governi di Israele. L'esistenza di un regime di apartheid è stata certificata da commissioni indipendenti delle Nazioni Unite o da ONG israeliane come B'Tselem. La narrazione dominante sulla difesa del diritto a esistere di Israele e la sua messa in pericolo si scontra con le immagini di distruzione e disperazione che arrivano dalla Palestina. Il 7 ottobre è stato un episodio di una cruenta guerra condotta da Israele sul piano militare, con progressiva sottrazione di territori, negazione di diritti, umiliazioni, violenze, costruendo un'enorme prigione a cielo aperto. Azioni rimaste sempre tutte impunite, nonostante i richiami internazionali e le condanne delle Nazioni Unite, che ormai contano poco o nulla nello scacchiere geopolitico. In questa puntata parleremo dell'emergenza umanitaria che vivono quei territori con Youssef Salman, della Mezzaluna Rossa Palestina in Italia, e con Amer Hassan, rappresentante della comunità palestinese in Friuli Venezia Giulia, ma anche delle iniziative di solidarietà che attraversano il mondo della cultura e della musica in Italia. Lo scorso 25 febbraio, organizzato dalla comunità palestinese campana, il Palapartenope di Napoli ha ospitato un concerto per raccogliere fondi da destinare a Medici Senza Frontiere e a Palestinian Medical Relief, che stanno operando per dare assistenza alla popolazione di Gaza. Oltre 100 artisti, un elenco lunghissimo, dal quale citiamo Ascanio Celestini, Enzo Avitabile, Moni Ovadia. Tra loro anche i 99 Posse, non certo nuove iniziative in sostegno della causa palestinese. E di questo abbiamo parlato con Marco Vessina. Buon ascolto. Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, sono Salvatore e siete all'ascolto di Ponte Radio, progetto di comunicazione, informazione e approfondimento costruito in parallelo con quattro realtà radiofoniche auto-organizzate, che sono Radio Onda Rossa, Radio Wombat Firenze, Radio Eustachio e Radio Quar. E con me c'è Marco, che saluto. Ciao Marco. Buonasera a tutti. Nella trasmissione di oggi come in quella di venerdì scorso e del venerdì a venire del mese di marzo, ci occuperemo della situazione in Palestina. In questa prima parte dello speciale abbiamo pensato di dedicarlo all'impegno, al ruolo delle ONG e delle associazioni. E per approfondire il tema abbiamo come ospite Youssef Salman, delegato in Italia dell'organizzazione umanitaria Mezzaluna Rossa Palestina. Salve Youssef, grazie per aver Buonasera a accettato il tutti. nostro invito. Ciao. Grazie a voi e buonasera a tutti i vostri ascoltatori. Come prima domanda le volevo chiedere se può presentare la Mezzaluna Rossa Palestina e soprattutto in cosa consiste l'operato della Mezzaluna Rossa Palestina di questi mesi. La Mezzaluna Rossa palestinese è equivalente alla vostra Croce Rossa. Ok. Praticamente anche in Palestina. Responsabile su un carico del governo dell'autorità nazionale palestinese del tutto il servizio del soccorso del pronto soccorso. Quindi, se voi avete notato, tutte le autoambulanze sono col simbolo della Mezzaluna Rossa palestinese, dove praticamente cura tutti gli aspetti dell'assistenza, del soccorso a tutto il popolo palestinese. È stata è creata, nata nel 1969, nelle basi dell'OLP, diciamo, in Giordania, e poi ha accompagnato tutti i problemi di carattere sociale, sanitario, umanitario del popolo palestinese, sia in Giordania che in Libano e ovunque si trovano i palestinesi, in modo particolare nei campi profughi palestinesi. La grande presenza è stata, se voi vi ricordate, è stata praticamente distrutta, invasa, distrutta in modo particolare nel 1982 nei campi di Sabra Shatila, dove abbiamo perso decine e decine di medici, infermieri e soccorritori, come tuttora. Questa ultima ondata, credo che avete letto, avete saputo, che noi abbiamo perso più di 340 fra medici, infermieri, soccorritori, operatori delle autoambulanze, e sono state distrutte solo in quest'ultima ondata più di 126 autoambulanze. Ho dimenticato aggiungere l'ultima parte che è molto interessante e importante. È quella che, se voi avete notato nei TV, quando si parla di Gaza, anche degli aiuti umanitari, tutto il mondo ha visto che ci sono, se non migliaia, centinaia di camion che aspettano di portare aiuto alla popolazione di Gaza, questi aiuti umanitari che aspettano. Aspettano praticamente il dare l'ok da parte, come dicevo, Israele non occupa solo tutta la Palestina e nessun palestinese può entrare o uscire senza il consenso, senza l'ok e il permesso del governatore militare israeliano, compreso il presidente palestinese. Allora, questi camion aspettano al valico di Rafah, che praticamente un valico, un portone, una porta che esiste fra due territori arabi, la striscia di Gaza e l'Egitto. Però tanti non viene mai detto che compreso questo valico di Rafah, è controllato da parte dell'esercito o del governo israeliano, e quindi nessuno può non si può far entrare niente senza il consenso dell'occupante israeliano. Questo è il colmo Adesso, se voi avete sentito di sicuro che gli americani stanno per costruire un porto a Porto, Gaza sì. per portare aiuti umanitari alla popolazione martoriata di Gaza. Guarda, è una cosa ridicola. Due settimane fa hanno lanciato questi aiuti attraverso le paracadute, attraverso gli aerei alla popolazione, dove sono morte anche 5 palestinesi, nonostante che tutto il mondo sa che il valico di Rafah sta lì, e quindi tutti sanno dove sta e tutti sanno a cosa serve. Però credo che questo porto o questo tentativo a parole a favore del dare aiuto al popolo palestinese, ma di fatto ha altri obiettivi che altro che a favore del popolo palestinese, ma tutto il contrario, a portare il disastro al popolo palestinese. Ecco, noi abbiamo appunto appreso che intanto appunto ieri da Scusami, Cipro è partita una nave. per favore, scusami, intendevo dire Certo, anche con scusami. l'accordo di tutti. Questi aiuti umanitari sono stati affidati anche alla Mezzaluna Rossa Palestinese. Questo che ho dimenticato Infatti era, no, questa data. no, no, no, era proprio, stavamo arrivando proprio a una domanda che era relativa a questa cosa, perché volevo intanto sapere una cosa. Dopo la strage del 29 febbraio a Gaza, che insomma ha terrorizzato, ha spaventato tutti noi che abbiamo potuto assistere soltanto da qui vedendo quelle immagini, che tipo di problemi sta riscontrando il mondo della cooperazione? Proprio nella fase fattuale, nella fase effettiva del passaggio di questi aiuti. Io innanzitutto mi viene subito in memoria, in mente il grande Vittorio Arrigoni. Che Vittorio Arrigoni, voi sapete che era l'unica quasi voce che portava notizie da Gaza durante il piombo fuso, mi sembra. Quindi adesso purtroppo, se voi avete visto, notato che non esistono giornalisti stranieri all'interno della striscia di Gaza. Poi, certo, se non ci sono giornalisti, figuriamoci se esistono anche le ONG, la cooperazione italiana internazionale. Purtroppo gli israeliani non vogliono nessun testimone di tutto quello che stanno creando, che stanno facendo a Gaza, nella striscia di Gaza. E quindi quelli che sono rimasti sono stati la maggioranza assoluta, sono stati costretti a lasciare la striscia, sono rimasti pochissimi, però rischiano in quanto palestinesi. Quindi non c'è nessuna garanzia al loro operato, alla loro vita. Rischiano, ma sono rimasti in pochi, proprio pochi. No, io invece volevo ritornare su una cosa che hai detto prima. Perché secondo te è preso di mira il personale medico? Innanzitutto, in una situazione drammatica come quella di Gaza, il personale medico è l'unico che può garantire un certo servizio, un certo operato che serve a salvare le vite umane. Infatti, l'ospedale, noi avevamo credo 39 ospedali, ormai quelli che sono rimasti operanti mi sembra 4 o 6, però con 100.000 difficoltà, ormai i medicinali non esistono più, i bambini vengono operati o vengono anche, come si dice, tagliati senza anestesia, le donne nessuna assistenza, anche le donne incinte e così via. Quindi L'unico che poteva alleviare la sofferenza di questa gente è praticamente il personale medico sanitario. Per questo è stato duramente colpito e se continuano a colpire questo organismo. Noi come Mezzaluna Rossa Palestina avevamo due grandi città sanitarie. Mi sembra Jabalia o a Gaza, all'Amal, all'ospedale Al-Quds, e sono state completamente distrutte. E quindi, oltre che le centinaia di migliaia che erano scappate dal nord e dal centro, praticamente perché gli israeliani non garantiscono nessuna sicurezza a nessuno. E quindi queste dove andava a rivolgere a proteggersi praticamente rivolgendosi alle strutture sanitarie, agli ospedali, alle cliniche private e anche pubbliche. E quindi purtroppo gli israeliani non hanno risparmiato nemmeno quello infatti hanno devastato, hanno distrutto, hanno sparato, hanno fatto tutto quello che vogliono. Quindi la sanità palestinese soffre al massimo, nonostante tutti i suoi problemi, era una buona sanità e dava assistenza, curava, trovava delle soluzioni in modo particolare a livello sanitario a tutti coloro, a tutti i bisognosi di questo servizio. E volevo sapere una cosa, voi state effettuando in questo momento raccolte di beni? Esistono campagne attive di raccolta per Mezzaluna Rossa, almeno sul No, territorio italiano? non raccolta di beni, perché noi ci hanno chiamato in tantissimi, nonostante ci sono dei beni di tutti i generi. E noi abbiamo sempre detto per favore non raccogliete medicinali, non raccogliete vestiti, non raccogliete cibo perché non fanno entrare mai niente. Come ho detto prima, ci sono centinaia e centinaia di camion pieni di aiutari umanitari cariche che aspettano di entrare e non li fanno entrare. E la gente a Gaza sta morendo di fame, cioè, in maniera seria. Ormai credo spero che anche a voi avete visto i video della gente, dei bambini che ormai sono ridotte ossa moventi. E quindi la questione della fame veramente è seria. Una cosa che nessun palestinese, nonostante che abbiamo sempre vissuto con i problemi e nelle disgrazie, però come questa non abbiamo mai passato. E quindi purtroppo noi abbiamo lanciato questa campagna di raccolta fondi che noi di solito mandiamo alla Mezzaluna Rossa Palestinese a livello centrale. E di solito nessuno, noi abbiamo sempre garantito, ringraziato tutti coloro che hanno donato, mandando sempre la lettera di ricevuta, di ringraziamento da parte nostra in quanto associazione Amici della Mezzaluna Rossa Palestinese in Italia, però dopo abbiamo già mandato due tranche di 100.000 euro alla Mezzaluna, e il presidente della Mezzaluna palestinese a livello nazionale e internazionale ci ha sempre mandato le lettere di ricevuta di ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a questa campagna SOS Gaza, che praticamente noi l'abbiamo fatta e lui ci ha garantito che questi fondi vanno ad alleviare le sofferenze della popolazione di Gaza che in questo momento vivono un momento tragico. e poi a quello che serve nell'immediato. Comunque il presidente della Mezzaluna Rossa Palestinese è quasi ogni settimana insieme ai rappresentanti della Croce Rossa Internazionale, va a Gaza, quindi sempre in diretto contatto con la nostra popolazione, le nostre strutture, nonostante tutte le difficoltà, tutti i problemi, per garantire di dare un minimo di Bertolino. assistenza o un minimo di aiuto. Noi abbiamo appreso che, diciamo, oggi, nelle ultime ore, da Cipro è partita una nave della ONG Open Arms, che era carica di rifornimenti. Avrete voi la possibilità di fornire supporto nella distribuzione di questi rifornimenti? Il problema è che entrano gli aiuti. Come ho detto, ci sono centinaia di camion pieni di sedie a rotelle, di bombole ossigeno, di tutte le attrezzature necessarie, però non le fanno entrare. E quindi io credo che ormai siamo pieni di propaganda, perché ci massacrano, gli americani ci massacrano, forniscono, se vuoi, io adesso sono costretto a fare questo discorso. Voi se vi ricordate che il terzo giorno dello scoppio di quest'ultimo scontro, non lo chiamo per niente guerra, perché le guerre non si fanno, questa non è una guerra, le guerre di solito si fanno fra due alla pari, due stati, due eserciti e così via. Qua è un massacro, è un genocidio, è un sterminio. E questo, purtroppo, questa è la realtà di quello che sta accadendo. Il terzo giorno dello scoppio di questa ultima ondata, praticamente di violenza dopo il 7 ottobre, si è presentato il presidente americano Biden in Israele. Noi abbiamo sperato e speravamo che questo è andato a dire agli israeliani: fermatevi, ragionatevi, troviamo qualche soluzione. Ci sono centinaia di risoluzioni delle Nazioni Unite, quindi una soluzione politica la troviamo. Invece è andato a dire tutto il contrario. È stato accompagnato da due portaerei e migliaia di soldati americani. Quindi è andato a dire agli israeliani: eccoci qua, a questo governo fascista, a questo governo di estrema destra, eccoci, prendete 4 miliardi e 200 milioni di armi, e 14 miliardi di aiuti economici, fondo perduto. E quindi ammassacrateli, assassinateli, cacciateli e così via. Non è andato, questo è il presidente della prima potenza mondiale, e quindi non è che è andato a dire facciamo pace, troviamo soluzioni pacifiche a questo conflitto. Tutto il contrario, per questo uno che continua a fornire l'esercito israeliano delle armi più sofisticate, più moderne, e continua, finora ha usato 3-4 volte il diritto al veto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il cessate il fuoco. Il cessate il fuoco. E potete immaginare? Quindi questo volete che possa dare un aiuto ai palestinesi? Per noi questo porto, secondo noi, lo stanno costruendo per facilitare lo spostamento e la cacciata dei palestinesi dalla Palestina verso quello che hanno sempre dichiarato, verso il Sinai, verso l'Egitto. Perché il giorno dopo succederà anche ai 3 milioni di palestinesi della Cisgiordania, che verranno cacciati verso la Giordania. E questa è la soluzione politica che ci offre questo governo israeliano criminale, sofisticato, sostenuto, appoggiato a tutte le velle dal suo padrone, l'impero degli Stati Uniti d'America. È questo che voglio fare. E quindi non crediamo in tutte queste parole, queste scenate che vogliono aiutare i palestinesi. Come ho detto, il valico di Rafah sta lì, a due passi. Quindi se vogliono far entrare gli aiuti umanitari, lo possono fare benissimo nel giro di 5 minuti, non di più. E questo è una presa in giro. Oppure, diciamo, quel valico utilizzarlo per far uscire poi i profughi da lì, ma no, ovviamente non potrebbe essere una condizione accettabile. No, perché, come ho detto, sono gli israeliani che lo gestiscono. Certo. Senza il permesso degli israeliani, quel valico non può, nessuno può uscire e nessuno può entrare. E questo è il problema. E un'ultima domanda: perché secondo te si ha paura di dire che questo è un genocidio? Perché sai, noi palestinesi abbiamo di fronte, chi abbiamo di fronte noi? Tanta gente non si rende conto di quello che noi affrontiamo. Noi abbiamo di fronte Israele, quello che sta dietro a Israele, cioè la tragedia degli ebrei, l'olocausto, la Shoah, e quindi noi stiamo pagando praticamente una colpa che non abbiamo mai commesso. Gli israeliani hanno permesso tutto, poverini, in modo particolare gli ebrei, poverini hanno subito, per carità, anche noi abbiamo condannato in maniera atroce, perché anche noi siamo vittime delle vittime dell'olocausto, della Shoah, però non abbiamo commesso noi la Shoah o l'olocausto, è stato commesso da altri, però noi lo stiamo pagando. Basta pensare l'ipocrisia, questa falsità che ormai avvolge il mondo intero. Se noi andiamo a chiederlo a tutti questi giornalisti, a questi politici che vediamo ogni giorno, ogni mattina in TV, su tutte le reti, qual è la soluzione del conflitto medio orientale? Tutte ti dicono, con alta voce, bocca aperta, due stati per due popoli. Allora noi subito chiediamo, ma scusate, se voi l'Italia e l'Europa hanno riconosciuto lo Stato di Israele 76 anni fa, dal momento che dite due stati per due popoli, allora perché non riconoscete lo Stato di Palestina? Purtroppo questo mondo ormai usa la politica dei due pesi, due misure. I palestinesi, non lo so, vedete, adesso non voglio parlare della questione Russia-Ucraina, ma scusate, si dice che le Russie hanno occupato l'Ucraina e hanno dato armi, soldi, tutto, 24 ore a parlare del diritto dell'Ucraina, giustamente, anche se c'è una occupazione, tutti i popoli hanno il diritto a resistere anche, allora invece della Palestina, no, la Palestina è tutta un'altra cosa per loro. Perché? Perché c'è Israele in mezzo. Ma nonostante che, ma vi ricordate quando il ministro della difesa, davanti a tutto il mondo, è andato a raccontare, a dire davanti a tutto il mondo che questi sono degli animali umani, niente acqua, niente cibo, niente medicinali, niente carburante, niente. Ma tutto a guardare. Tutte a guardare, purtroppo noi stiamo pagando anche questa politica dell'assurdità, perché anche noi, quando ci sono questi episodi di antisemitismo, anche noi siamo vittime di questi episodi. Abbiamo sempre manifestato solidarietà con le comunità ebraiche, con gli ebrei, quando subiscono questi episodi. Però scusate, ma oggi sono riuscite, le sioniste sono riuscite a realizzare una, due, tre obiettivi veramente attraverso questa macchina gigantesca propagandistica loro, che i palestinesi, quando si parla di palestinesi, terrorismo e terroristi. Invece non si può fare una minima critica alla politica criminale dei governanti israeliani, se no viene etichettato come antisemita. Certamente, giustamente, nessuno vuole avere questa brutta etichetta, e alla fine cosa abbiamo? Vediamo. E questa è la politica di questa comunità internazionale, la politica delle tre scimmie. Io non vedo, non sento e non parlo. Per questo la comunità internazionale ha questo atteggiamento. E quindi dopo cinque mesi, tutti a guardare e nessuno interviene. Perché? Perché gli israeliani, sostenuti dagli Stati Uniti d'America, agli israeliani è permesso tutto. Permesso tutto. Per questo noi diciamo di solito i problemi col passaggio del tempo vanno verso una soluzione, invece questa sempre dal peggio al peggiore, la questione palestinese, il conflitto medio orientale. Perché? Perché io non credo anche che, se andiamo a vedere sul terreno, chi va a morire? Sono palestinesi e israeliani. Ma dopo 76 anni, se io cerco di, non lo so, ucciderti e non ce la faccio, tu cerchi di uccidermi e non ce la fai, allora cosa dobbiamo fare? Se abbiamo un minimo di un po' di cervello nella testa, credo che dobbiamo dire basta e trovare una soluzione. E ci sono centinaia di risoluzioni delle Nazioni Unite che non sono mai state applicate o accettate dallo Stato di Israele e dai sionisti. Per questo, alla fine dei conti, troviamo questa situazione qua, che il discorso va avanti per volontà di quello che sta su a gestire tutta questa situazione, che non sono né i palestinesi né gli israeliani. Noi paghiamo la politica, questa politica stupida e assurda dell'impero degli Stati Uniti d'America, perché sono gli americani che non vogliono la pace in Medio Oriente, la pace fra palestinesi e israeliani. Ci tengo molto a dire una cosa. Io lo dico con tutto il cuore aperto ai vostri ascoltatori. La lotta dei palestinesi, toglietelo dalla testa, non è mai stata una lotta religiosa. Noi non lottiamo contro gli ebrei perché sono religione ebraica. Gli ebrei sono sempre stati i nostri fratelli con i quali abbiamo vissuto per secoli e vogliamo continuare a farlo oggi e domani. Tutto rispetto agli ebrei in quanto religioni. Non lottiamo nemmeno contro tutti gli israeliani, perché ci sono degli israeliani che riconoscono i legittimi diritti del popolo palestinese e vogliono vivere con noi, insieme a noi, con uguali diritti e uguali doveri. Purtroppo sono pochi e noi abbiamo sempre sperato e speriamo che diventano un giorno maggioranza in Israele. Purtroppo noi lottiamo contro questo movimento, questa ideologia razzista, sciovinista, fascista, cioè il sionismo. Quello, questa ideologia, questo movimento che ha creato tutto, ha basato tutto sulla Palestina e la terra promessa da Dio, solo al suo popolo eletto, quello ebraico. Ma in Palestina la maggioranza assoluta sono ebrei cristiani. Allora cosa devo fare di questi? Per loro bisogna cacciarli fuori, come stanno facendo ora a Gaza, e quello che voglio fare domani in Cisgiordania. Per questo, se avete mai sentito parlare un israeliano o avete parlato mai con un israeliano, a noi non ci dà mai del palestinese. Ci danno sempre degli arabi, quindi voi siete arabi, andate dai vostri fratelli in tutto questo grande mondo arabo in Arabia Saudita, in Iraq, in Siria, in Giordania, in Libano, in Egitto, in Marocco, dappertutto, ma non qua. E questa è la terra promessa da Dio, il Dio che ce l'ha data. E quindi solo a noi, in quanto popolo eletto da Dio. Ditemi voi se esiste più massimo di questo razzismo. Non lo so. E questo è il nostro problema. Verissimo. Youssef, noi ti ringraziamo per essere intervenuto nella nostra trasmissione. Veramente ti ringraziamo di cuore. E grazie a tutti voi, però voglio concludere. Vai. Innanzitutto io lo dico sempre ai vari rappresentanti israeliani di più, non delle comunità ebraiche. Potete fare tutti gli accordi di pace che volete con tutti. Israele ha fatto degli accordi di pace con gli Emirati Arabi Uniti, col Qatar, col Bahrain, col Marocco, con l'Egitto, con la Giordania. Posso fare gli accordi con tutti, a parte che non sono mai stati in guerra con questi paesi. Però finché non fate, se volete continuare a vivere e far parte di quell'area geografica che è il Medio Oriente, non potete non fare la pace con i diretti interessati, i palestinesi. Quindi se non fate la pace con i palestinesi, scordatelo a vivere un giorno di pace o sognare di vivere un giorno di pace. Non si può parlare di pace quando non si può parlare di giustizia. È come se non si può parlare di giustizia se non si parla dei diritti legittimi del popolo palestinese, il suo diritto all'autodeterminazione, al ritorno, perché al ritorno di 7 milioni di profughi palestinesi che da più di 76 anni continua a vivere sotto le tende nei vari campi profughi palestinesi in tutti i paesi del mondo arabo. E quindi anche il diritto di questo popolo ad avere il suo stato libero, indipendente, laico. Il nostro problema oggi, anche questo scontro, tutti dobbiamo capire che sta alla base il futuro stato. Il futuro, due stati, per due popoli ormai, tutti parlano, ma se andiamo a vedere di fatto ormai una soluzione infattibile, impossibile, perché della Palestina non è rimasto più niente, non è rimasto più niente. Quindi per noi l'unica soluzione e la soluzione migliore, la più bella secondo me, è quella del quale ha parlò Arafat, ho cominciato sogno, come strategia, cioè uno Stato libero, laico, democratico, dove ebrei, cristiani, musulmani possano vivere insieme con uguali diritti e uguali doveri. L'unica soluzione, se no, io dico sempre, cioè lo Stato religioso, confessionale, non è per niente la soluzione. Cioè lo Stato ebraico non è la soluzione di questo conflitto in quell'area geografica del mondo. Nemmeno lo Stato islamico, uno Stato come vuole Hamas, come vuole, non so, Israele vuole Netanyahu, tutti i suoi compagni vogliono lo Stato ebraico, ma nemmeno lo Stato cristiano. Si può creare uno Stato religioso confessionale dappertutto, ma non in Palestina. In Palestina sono nate tutte le tre religioni monoteistiche, l'ebraismo, il cristianesimo, l'islam. Non si può creare come soluzione uno Stato confessionale. Per questo io dico è un Stato fallimentare. Per questo io spesso dico bisogna capire le cose, perché per impedire e questo continuo massacro che non finisce mai. Noi potete immaginare un ragazzino di Gaza che è nato dopo il 2006, quando Hamas ha vinto le elezioni in Palestina, c'è stato l'assedio. Un bambino che è nato nel 2006 ha vissuto sei guerre, cosiddette guerre. Potete immaginare un bambino che ha vissuto sei guerre, con quale animo, con quale, che, quale vita vuole fare in futuro? È questo che non voglio capirlo, gli israeliani e tutti i suoi e loro amici, i loro protettori. E quindi la soluzione deve essere uno Stato unico, uno Stato democratico, uno Stato laico di tutti e per tutti. Grazie, Giuseppe. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Poi ti. Sì, ho detto grazie a tutti a voi, siete stati eccezionali. Buona serata, buon lavoro. Grazie, Ciao. Grazie, grazie, grazie mille. Grazie mille. grazie, un abbraccio. Ciao. Grazie, un Grazie anche abbraccio. a voi, anche Ciao. a voi, grazie, ciao. Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, sono Salvatore e siete all'ascolto di Ponte Radio. Con me c'è Marco che saluto. Ciao Marco. In Ciao. questa seconda parte dello speciale abbiamo pensato di dedicarlo all'impegno del mondo delle arti e della musica e di come si sta muovendo a sostegno del popolo palestinese e da come invece la censura dei media sia sempre più potente e minacciosa. E per approfondire il problema abbiamo come ospite Marco Messina dei 99 Posse, che da sempre sostengono la causa palestinese. Ciao Marco, grazie per aver Ciao. accettato il nostro invito. Allora, è un argomento molto interessante, nel senso che c'è sempre meno gente che è disposta a schierarsi. Qualche giorno fa ho letto che anche Gali si lamentava che il mondo della musica non si schierava, eccetera, eccetera. Va detto che in realtà, siccome negli ultimi anni quella che io chiamo fascia liberale, che si è palesata paradossalmente per essere più fascia dei fasci, ha iniziato come dire, ha iniziato ad avere un'attitudine che secondo me è arrivata ai picchi massimi con la tragedia della guerra, anzi dell'invasione dell'Ucraina, con la tragedia del massacro di Gaza, perché secondo me entrambe non vanno chiamate guerre. Che cosa succede? Loro sono così violenti nell'attaccare chi esprime una voce contraria e riescono comunque, approfittando del fatto che sui social lo sport preferito è quello di buttare merda sul prossimo, riescono a creare un tale sommovimento appena qualcuno dice anche una piccola cosa, che io capisco che parecchi artisti pensano, ma chi me lo fa? Cioè, lo dico da chi si mette in prima persona, capito? Capisco chi dice, ma chi me lo fa fare? Va detto però comunque, perché uno può essere negativo, io ho la fortuna di insegnare all'Accademia di Belle Arti e quindi di avere anche uno stretto contatto con le nuove generazioni. E una volta i miei studenti mi hanno chiesto di dedicare un'ora della lezione in cui io gli spiegavo un po' come la situazione della Palestina, perché loro dicevano: noi leggiamo i canali di informazione ufficiali e abbiamo l'impressione che ci sia Israele che è stata aggredita. Ma poi andiamo sui social, loro addirittura mi parlavano di TikTok, che per molti di noi è, come dire, è l'orrore, me compreso, e mi dicevano: e guardiamo i video dei ragazzi israeliani e di video dei ragazzi palestinesi e dalle loro facce è evidente che i ragazzi palestinesi difendono con rabbia un privilegio e i ragazzi palestinesi subiscono con disperazione un'enorme ingiustizia. Quindi diciamo che paradossalmente diciamo Non è che i palestinesi chissà quanto se ne facciano della nostra solidarietà, per quanto vasta sia, però nonostante questo enorme apparato di propaganda, di censura, di attacchi violenti, la verità è talmente palese, talmente evidente che non riescono a mascherarla. Questa è una cosa che mi sento dire. Aggiungo che io qualche giorno fa riflettevo su una cosa. Sinceramente non mi sono fatto ancora un'opinione. Nel senso che qualche tempo fa a Napoli un gruppo di artisti, da cui io non me lo sarei mai aspettato, organizzano una manifestazione per la Palestina e riescono addirittura ad avere il loghetto del comune e della regione su quella manifestazione. Che, cioè, io quando l'ho visto ho pensato, buono. Allora, la prima cosa un po' preoccupante è che la misi sull'ex Twitter e un po' di gente, ma la regione, ma il comune, ma questi qua non si sono mai occupati perché se ne devono occupare. E poi addirittura ci fu anche una piccola, diciamo, non contestazione, però alcuni compagni, alcune compagne andarono a discutere animatamente, diciamo, perché c'erano delle cose di quella piattaforma che a loro non piaceva. E io mi sono domandato, ma un artista quando si schiera per la Palestina già si aspetta che avrà una serie di rotture di cazzo, di attacchi? Ti posso garantire sulla mia pelle anche qualche lavoro in meno. Io capisco che uno dice, ma guarda questi che hanno scritto, perché anche a me non piacevano delle cose scritte su quella piattaforma. Però forse non è meglio che io mi faccia la mia manifestazione con la mia piattaforma e sono comunque felice che qualcuno, in una modalità che comunque io non condivido, manifesta per il cessate il fuoco a Gaza? Questa è una domanda che mi pongo e che magari, insomma, potrebbe aprire una riflessione in mezzo anche a tante compagne e tanti compagni. Questo è un dubbio che mi è venuto perché penso, cioè, è giusto, cioè, uno dice una cosa che non mi piace, te la dico. Però poi non mi posso lamentare se quelle persone, come dire, nella prossima crisi, perché poi, insomma, io sono, mi piace essere realistico, no? Questa non sarà, cioè, probabilmente questa è la più grave, lo sarà per qualche decennio. Ma non è la prima, non sarà l'ultima situazione in cui vedremo i palestinesi massacrati da Israele. E io mi immagino che questi qua, la prossima volta, mentre staranno parlando tra di loro, ma guarda che schifo, ma facciamo qualcosa, penseranno, ma chi ci fa? Ti volevo chiedere questo, durante questo periodo in cui c'è questa situazione in Palestina, voi siete entrati in contatto con altri artisti che volevano organizzare qualcosa, fare qualcosa? Perché so che diciamo, eravate in cartellone appunto all'evento Life for Gaza che c'è stato a Napoli il 25 febbraio scorso e che è stato promosso dalla comunità palestinese campana. E avete Allora, avuto modo di prendere contatto con io ti qualcuno, di parlo. scambiare anche qualche opinione? Opinione, ecco, con i colleghi come voi, ecco. Allora, ti parlo un po' come dici, della mia esperienza personale, che tra l'altro forse è più interessante perché essendo io trasversale tra il teatro, il cinema e la musica, ho più, diciamo, ho più contatti, ho una rete più estesa. Allora, appena c'è stato proprio il primo, è stato sferrato il primo attacco su una serie di vecchie chat nate durante la pandemia in cui si discuteva diciamo, delle rivendicazioni dei diritti dei lavoratori del mondo della produzione culturale, si sono riavvivate di gente che diceva, oh, hai visto che dobbiamo fare? Facciamo qualcosa, eccetera, eccetera. E da lì sono nate una serie di piccole iniziative. Ovviamente noi la prima cosa che abbiamo fatto una nuova chat invitando più gente, tra cui anche membri della comunità palestinese napoletana. E da lì sono nate una serie di iniziative. Dopodiché, un centro sociale napoletano si propose di fare una grande serata di finanziamento con tutti gli artisti, eccetera, eccetera. In realtà, poi, per una serie di motivi, secondo me validi, si decise di farla organizzare dai palestinesi e si iniziò a valutare la cosa di farlo in un posto più istituzionale. È inutile dire perché dovevano organizzare i palestinesi. E la scelta del posto più istituzionale, innanzitutto a Napoli non c'è un centro sociale che contiene 6.000 persone. Prima cosa, e considerando che il Teatro Tenda Partenope, dove è stato fatto il concerto, che contiene 6.000 persone, i biglietti sono finiti in 2 giorni. Devo dire la verità, lì si è creato effetto valanga. Nel senso che a un certo punto è diventato un problema dire di no alla gente, perché tu inizi a vedere che suona praticamente tutta Napoli e vuoi suonare pure tu. Ed è stata una serata davvero bella. Poi io francamente ci sono andato, sono felice, però cioè, io penso che noi dovremmo trovare un modo per uscire dalla nostra bolla, perché quella è una cosa, credo, che abbia fatto. Certo, si sono alzati dei soldi che saranno mandati, ma comunque io credo che il problema principale, che non è di facile soluzione, sia quello di uscire dalla bolla. Ecco, io credo che noi la cosa sulla quale ci dovremmo impegnare, ma che ovviamente non è di facile, come dire, non è facile, è trovare un modo per andare fuori dalla nostra bolla. Perché comunque quel concetto è stato bellissimo, è stata una cosa meravigliosa. Però ovviamente ce la siamo cantata e ce la siamo suonata. Probabilmente se si faceva un concerto con 6.000 persone per l'Ucraina, ci stava Rai 1, Rai 2, Canale 5, Rete 4, giornalisti, ci venivano a mettere le coccardelle. Infatti del concerto del 25 febbraio, in realtà i media non ne hanno parlato per Zero. niente. Penso, credo, forse neanche le cronache locali lo hanno riportato, forse qualcuno. Allora, diciamo così. L'hanno fatto dei giornalisti musicali, ma secondo me più perché pensare, ma io la prossima volta che intervisto uno dei 50 gruppi che stanno su quella cosa, mi pisceranno in testa. Scusate il francesismo. Secondo me è stato più quello il pensiero. Però io ribadisco, noi dovremmo trovare, come dire, noi è da troppo tempo che siamo in difesa e lasciamo questa feccia all'attacco. Perché io non voglio giustificare. Anche perché, come dire, le mie scelte, il mio vissuto da quando avevo 20 anni ad oggi, che ne ho 53, quindi sono un po' di annetti, cioè parla da solo. Però io capisco la paura della gente di dire: ma fammi togliere da mezzo alle botte. Ma invece, secondo te, com'è la percezione pubblica di quanto sta succedendo in Palestina? Allora, guarda, io adesso può sembrare retorico, però voglio essere proprio. Allora, io mi piacerebbe tanto scrivere una lettera aperta alle comunità ebraiche, perché io sono convinto che non solo l'atteggiamento di Israele, ma l'atteggiamento di estrema copertura che ha Israele in una società e in un sistema di flusso comunicativo come quello che stiamo vivendo in questa fase dell'esistenza dell'essere umano, alimenta l'antisemitismo. Tutta la massa mediatica che si è mossa durante questi 2 anni di guerra in Ucraina, anzi di invasione dell'Ucraina, hanno generato un sentimento antirusso che è dovuto nascere, come dire, dal nulla. Quindi è ovvio che questa roba alimenti qualcosa che comunque sta ancora lì sotto la brace. Cioè io penso che imporre il cessate il fuoco, imporre anche, guarda, voglio fare proprio come dire il super moderato, delle sanzioni economiche come abbiamo fatto con la Russia a Israele, che tra l'altro essendo un piccolo paese, io ma non faccio l'economista, ma penso che comunque un grande paese come la Russia regge meglio l'impatto delle sanzioni rispetto a un piccolo paese come Israele. Quindi io credo che questa cosa qui, come dire, sarebbe un modo, non è solo un fatto di giustizia, perché, come dire, ma è anche un fatto proprio di utilità, perché è ovvio che in un mondo in cui la gente non pensa, non ragiona, non fa, in un mondo, cioè in una società in cui oramai noi siamo abituati che, mo ci vuole, Putin invade l'Ucraina e anche i giornalisti, cose. Gente, diciamo, che dovrebbe avere gli strumenti culturali per dire: ma cosa c'entra la letteratura russa con Putin e l'invasione dell'Ucraina? Cioè, è normale che ci sta qualcuno che inizia ad associare, no? Cioè, quindi, come dire, è ovvio che una cosa del genere alimenta questa roba. Quindi io penso che al di là della giustizia, proprio come interesse di comunità, ci dovrebbero risolvere questo problema che hanno, perché pesa come un macigno questa roba, perché per quanta roba possano raccontare, per quante balle possano raccontare, per quanto, come dire, con l'enorme bombardamento mediatico, un morto israeliano che è comunque grave, come dire, diventa più importante nella comunicazione di 1.000 morti palestinesi, è proprio importante che si risolva questo problema perché altrimenti in minima parte, ma comunque aumenta. Mentre ti ascoltavo, stavo pensando al fatto che appunto sì, viviamo in un periodo un po' complicato, ma non sappiamo se è più la censura o l'autocensura, nel senso che ci accorgiamo che i mezzi di comunicazione quasi quasi stanno cercando di evitare di dire certe cose, cioè di usare certi termini. E quindi sembra proprio che ci sia un'autocensura a monte, cioè nel senso che a un certo punto le persone cominciano a pensare che certe cose non le possono dire. Non so Ah, se questa è anche la tua percezione o se è più invece un problema proprio di censura organizzata, cioè di contare sul fatto che poi alla fine nessuno dirà, pronuncerà quella parola, la parola genocidio, piuttosto che si dica che si fanno morire di fame le persone, ecco, diciamo, per usare due argomenti che sono centrali. ma guarda, il punto è questo qui. Io credo che esattamente come, per esempio, negli anni 70, anche gente impensabile usava certi termini, diceva certe cose, no? Perché c'era un pensiero dominante. Anche oggi c'è sempre un pensiero dominante. Una volta, per puro caso, la mia curiosità mi fece leggere delle fotocopie lasciate su un tavolo da qualche studente dopo l'esame, di questo filosofo francese che si chiama Lévy, che non è però, diciamo, quello da prendere a paccari, che parlava di intelligenza collettiva, cioè nel senso che noi siamo quello che viviamo, quindi quello che ci ha trasmesso la nostra famiglia, quello che ci trasmette la nostra comunità, la nostra bolla, e quello che ci trasmette la società nella quale viviamo. Quindi tendenzialmente, come dire, questa cosa qui diventa anche, no? Cioè, tu senti che non puoi dire certe cose. Quanta gente, per esempio, ha anche paura di dire. Cioè, io, per esempio, prima che scoppiasse la guerra, non mi facevo problemi a scrivere anche sui social: Zelensky e Putin soccomma due Maruz, uno Fede e l'altro Putz. Oggi non è che non lo penso, però, come dire, so che se lo dico parte, no. Del resto, se io voglio dire, ma siamo sicuri che mandare armi sia la soluzione giusta, ok? Devo fare una premessa. Io penso che comunque Putin è una latrina. Come parlavo con un mio ex compagno di liceo con il quale ci sono rimasto in contatto, che da qualche anno si è fatto folgorare le grandi firme del giornalismo dell'area Feccia Liberale, cioè, come dire, io penso che poi io posso avere un'idea che è diversa da quella vostra, per esempio, no? Su come si potrebbe risolvere il problema quel problema, come si potrebbe risolvere, diciamo, la situazione dell'invasione dell'Ucraina e su come si potrebbe risolvere. Però ci dovrebbero essere dei presupposti. Ok? Oppure possiamo avere anche opinioni diverse su come si è arrivati all'invasione dell'Ucraina, come si è arrivati al 7 ottobre, però, come dire, ci dovrebbero essere dei punti fermi che dovrebbero appartenere, diciamo, non a un fatto ideologico, ma a un fatto di umanità. Cioè, che comunque qualsiasi cosa e qualsiasi provocazione tu non invadi un altro paese, se lo fai sei una latrina. Punto. Poi noi possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo sul 7 ottobre, ma tu comunque come risposta al 7 ottobre non puoi radere al suolo un'intera zona geografica e massacrare 30.000 persone. Questa roba ci dovrebbe essere un'opinione condivisa. Poi possiamo avere idee diverse su come risolvere, come non risolvere. Si può discutere di tutto. Però questa roba qua dovrebbero essere, come dire, cioè, dei punti fermi di chiunque, che che abbia qualsiasi opinione politica, credo religioso, come dire, appartenenza geografica, non lo so, cioè, ma secondo me anche se viene uno da Marte dovrebbe avere questi come punti fermi. Purtroppo sono, non è che poi sono saltati, questa roba è sempre saltata, no? Però a me mi sembra che questa roba è saltata più di, un po' ovunque. Del resto, poi, secondo me, facciamo anche autocritica, anche in mezzo a noi, cioè per esempio qualcuno a cui è saltata questi, sono saltati questi punti fermi, secondo me. Secondo te quanto è importante, cioè abbiamo iniziato proprio a parlare di, diciamo, dell'impegno degli artisti, mentre invece secondo te quanto è importante l'arte, la musica, il cinema nel sensibilizzare le persone su temi proprio come la Palestina? Ma guarda, io ti dico, non è un caso che io con i nomi sono negato, ma che il discorso agli Oscar del regista della zona di interesse in Italia, come dire, siano state tagliate, cioè come sono saltate delle frasi così. Non è un caso, cioè è importante quanta gente della nostra generazione si è avvicinata alla nostra area. Perché si è sentita un concerto di Reggio, un concerto di 99 Posse. Poi questa cosa ha anche delle problematiche. No, cioè, non è solo bella, faccio un po' di autocritica, perché non smuove dal ragionamento, ma smuove da un'emozione. Quindi poi tu ti puoi ritrovare anche nelle situazioni tue, gente che non c'entra proprio un cazzo con te e che è stata trainata da una bella canzone. Non è che per forza è che è. Però fa. Ma io credo che faccia molto le persone. Guarda, io per dirti, io per esempio oggi all'Accademia delle Belle Arti di Palermo c'era un convegno tra arte, come dire, come l'arte, come la produzione culturale può sostenere la causa palestinese. E c'era il direttore dell'Accademia di Belle Arti. Che tra l'altro, come dire, devo dire la verità, no? Solitamente quando si fanno le conferenze, sai, a volte c'è anche l'interruzione della didattica, in questo caso non è stata fatta, però comunque è stato girato questa cosa. Io, alcuni studenti miei, io stamattina avevo lezione, mi hanno detto, ma noi vorremmo andare, e ovviamente ho detto, figuratevi, io vi posso mai dire di non andare. Cioè, e quindi è così, è proprio così. Ho fatto una specie di installazione sonora per la prima manifestazione che si è fatta a Napoli. Feci questa installazione e ovviamente la forza del suono è che tu non vedi. Per cui in realtà non fu semplice perché io ho preso dei suoni di guerra e comunque c'era questa sensazione di questi suoni di guerra che comunque attiravano la gente e a un certo punto partiva una cosa che ho trovato su Twitter di un politico. Non so se irlandese o scozzese, che al convegno del partito, invitando che c'era un invitato, un rappresentante della comunità palestinese, dice: We are thousand, we are millions, we are all Palestinians. E lo dice scandito come se era un pezzo rap. La sua voce parte da sola e poi inizia a crescere perché si aggiunge tutta la sala della conferenza. E beh, io, come dire, sono stato contento come artista, come musicista e come compagno che a un certo punto questa cosa ha avuto una potenza tale che la piazza si è messa a cantare, non tutti. Diciamo le persone della manifestazione, ma anche molte persone che si erano fermate dicendo: Ma che sta succedendo? Si sono messi a cantare: We are thousand, we are millions, we are all Palestinians. Beh, questa è una cosa importante perché ti prende mo, chi dirà il cuore, chi dirà la pancia, chi dirà l'anima, comunque ti prende qualcosa che viene da dentro e che è importante. Quanto è importante, come dire, la teoria, ovvero spiegare perché sta succedendo quella roba lì. E io penso che la teoria senza, come dire, la testa senza la pancia e la pancia senza la testa funzionano meno bene. Quindi, secondo me, è importantissimo. Senti, parlando proprio della cosa che hai detto rispetto a Jonathan Glazer, che alla premiazione degli Oscar, diciamo, si è esposto in maniera così diretta, poi soprattutto forse in una platea che Non so quanto fosse ben disposta ad accogliere un discorso del genere. E la sua domanda, oltre al fatto il discorso che ha fatto, si concludeva come possiamo fare a opporre resistenza? Cioè era una domanda posta alla platea, a se stesso e a chi ascoltava collegato. Cosa possiamo fare per opporre resistenza sia a questa specie di... Non vorrei dire dittatura delle non parole, ecco, delle non parole. Cioè, quali sono le parole che in realtà possiamo usare? Ma guarda, allora io penso che quello che possiamo fare, in realtà è quello che possiamo fare sempre. Chiunque, anche ovviamente un musicista, un artista ha una platea più larga, cioè il regista della zona di interesse vince l'Oscar e ha una platea internazionale enorme, ok? Ma anche un cittadino, una cittadina normale, magari sente in metropolitana gente che parla e intervenire e dire: ma che stai dicendo? Anche quello è importante. Cioè, io penso che ognuno, con i propri mezzi che ha a disposizione, deve fare di tutto per cortocircuitare. Io la continuerò a chiamare come si è sempre chiamata, la propaganda. E le parole che dobbiamo iniziare a usare, che dobbiamo non aver paura di usare, io per esempio non ho paura di dire che probabilmente, cioè a me quando qualcuno mi ha detto però il 7 ottobre, io dico sì, è vero che schifo il 7 ottobre, ma se mandavamo ai palestinesi le armi come le mandiamo agli ucraini, i palestinesi invece di fare il 7 ottobre facevano come facevano gli ucraini, combattevano l'esercito nemico e ovviamente le perdite civili da ambo le parti sarebbero state infinitamente di meno. Ma io personalmente, cioè poi ognuno la pensa come vuole, però questo è un dato di fatto, così come è un dato di fatto che probabilmente se la Russia occupasse il 70% del territorio ucraino e questa cosa andasse avanti per 70 anni, nel silenzio, nella migliore delle ipotesi della comunità internazionale, se non addirittura baci, abbracci con Putin e diamogli pure un altro poco di armi perché così si difende meglio dalla resistenza ucraina, probabilmente anche gli ucraini a un certo punto avrebbero fatto il 7 ottobre. Cioè, queste sono cose che vanno dette. E questo non significa difendere Hamas. Per me Hamas è una merda. Come dire, anche questo dovrebbe essere un punto fermo. Però, cioè, come dire, perché è nata Hamas? Cioè, del resto noi in Italia abbiamo gente che festeggia la morte, diciamo, di 50 migranti che naufragano in mezzo al Mediterraneo perché sono infastiditi da quello che ti lava come dire, il vetro della macchina al semaforo, da quello che ti chiede lo spicciolo al supermercato o da qualcuno che magari una volta ti ha rubato il portafoglio dentro la borsa, dovresti capire che se questa poca roba ti fa festeggiare, no? Ci può essere che uno dopo 70 anni odia così tanto qualcuno. Questo non significa giustificare, significa comprendere. E comprendere se uno vuole risolvere il problema e fa, perché io mi auguro che non ci sia mai più un 7 ottobre nella storia dell'umanità, mi auguro che non ci sia più un massacro di 30.000, perché non è roba bella. Ma se io devo fare questa roba, devo creare i presupposti sperando che queste cose non succedano più. Non ci sono cazzi. Questo è quello che io credo, diciamo, è una cosa importante. Poi ognuno la fa con i mezzi che ha, però bisogna anche smettere di dire certe cose. Cioè io, per esempio, quando scrivo, scrivo il regime israeliano, perché io non capisco perché. Giustamente non diciamo l'Iran, diciamo il regime iraniano. Io capisco e trovo giusto dire il regime russo. Perché non possiamo dire regime israeliano? Perché non si comporta da dittatore con i propri cittadini, ma con i territori e chi ci abita dei territori occupati. Cioè, le parole sono importanti e dobbiamo usarle. Chi se ne frega se poi la gente. Non dobbiamo avere paura. Marco, noi ti ringraziamo per aver partecipato a Ponte Radio. Oggi a parlare di Palestina qui con noi abbiamo Amer Hazan, rappresentante della comunità palestinese in Friuli Venezia Giulia. Ciao Amer, grazie per essere qui con noi. Grazie per la sera, grazie anche a voi di avermi invitato. Allora Amer, con te per cominciare volevo condividere alcuni dati. Ovvero, da ottobre a oggi si sono registrate più di 30.000 vittime a Gaza, migliaia e migliaia di sfollati che forzatamente si sono spostati dai propri luoghi, dalle proprie abitazioni. Hanno trovato ad attenderli le bombe dello Stato israeliano, nonostante forzatamente si sono spostati verso un luogo ritenuto sicuro. Davanti a questi dati, il termine di genocidio è lecito? E certo, senz'altro, è lecito anche perché questo fatto qua non è mai accaduto dalla guerra del Vietnam, perché in 30.000 persone, che lei che sta parlando, se aggiungiamo a queste 30.000 persone anche le persone ancora sono purtroppo ancora sotto le macerie, perché non si riesce a scavare, a tirarle fuori, perché loro bombardano in continuazione, impediscono anche i soccorsi, si aggiungono circa anche altri 10.000 di questi qua. Solo questo qua l'hanno uccisi perché è direttamente da un esercito regolare, non è una guerra tra varie fazioni, perché l'esercito italiano è un esercito regolare, uno stato riconosciuto a livello internazionale, ha fatto la guerra contro una popolazione civile inerme, perché alla fine i morti sono civili inermi, quelli che noi li vediamo in televisione. Come sono stati eseguiti questi bombardamenti? Loro hanno bombardato praticamente dove vengono rifugiati i palestinesi, sono rifugiati nelle scuole, hanno bombardato le scuole, sono rifugiati nelle moschee, hanno bombardato le moschee, soprattutto l'hanno preso anche negli ospedali, quelli che hanno cercato il rifugio negli ospedali, purtroppo l'hanno bombardato anche gli ospedali, anche addirittura hanno bombardato le tre chiese che sono presenti a Gaza. Dunque una persecuzione verso la popolazione palestinese con l'intento chiaro, come lo dicono anche in ebraico sui giornali ebraici, che loro vogliono sfollare la popolazione palestinese da Gaza, mandare via la popolazione palestinese. E questo qua si aggiunge, oltre a questa morte qua, noi vediamo i quartieri palestinesi a Gaza, le città, alcuni quartieri purtroppo non sono più stati spianati a livello della terra, in maniera di evitare che questi qua, quelli che sfollati, che vengono tornare alla loro abitazione, cosa trovano? Non trovano nulla qui su cui dormire. E eliminare ogni cosa riguardante del popolo palestinese, le città. Se vediamo la televisione, noi vediamo le strade, non sono più, vediamo solo terra e sabbia perché loro l'hanno scavate. I palazzi sono tutti quanti distrutti. Quando si distruggono, circa l'80% delle abitazioni vengono danneggiate, e qual è l'intento? Non è l'intento andare a caccia del loro nemico che sono combattenti palestinesi, ma loro in realtà il loro obiettivo è quello qua, rendere la terra palestinese inabitabile, invivibile per i palestinesi, costringere ad andare all'estero. E questo qua noi parliamo di questo genocidio perché è riconosciuto dal Tribunale Internazionale che non ha rigettato la causa del Sudafrica, vuol dire ha riconosciuto che ci sono presupposti di un genocidio del popolo palestinese. Questo. Praticamente si evince che il disegno cominciato 76 anni fa, Netanyahu non sta facendo altro che portarlo a termine. In effetti, perché i palestinesi abbiamo noi riconosciuto con Yasser Arafat, il nostro presidente, lo Stato di Israele con l'accordo di Oslo, poi ultimamente Netanyahu ha detto che lui ha ostacolato la nascita dello Stato palestinese in tutti i modi, ha fatto tutto per ostacolarla, perché alla fine ha potuto nascere il motivo a far fermare gli accordi di pace, perché in realtà quello che gli davano a lui è solo tipo riserva indiana, autonomia limitata, senza spazi aerei, senza confini, senza risorse idriche, senza nulla in realtà. E questi accordi qua non potevano mai stare in piedi. E loro, anche complice, purtroppo anche l'Occidente con Israele, perché in 75 anni da quando è stato fondato lo Stato di Israele, non hanno mai voluto, non è stata neanche volontà seria di fondare un Stato palestinese. Perché purtroppo noi pensiamo che l'Occidente considera Israele come un avamposto coloniale in Medio Oriente. In questo modo qua l'Occidente, come dire, si lava un po' di coscienza, un po' di coscienza verso l'olocausto che i palestinesi nella seconda guerra mondiale non hanno ucciso neanche un ebreo in realtà. Questo l'hanno fatto gli altri, gli europei, però la colpa la stiamo pagando noi palestinesi. Noi nel prima del 1948 la popolazione ebraica che era, occupava solo il 7% del territorio palestinese. Con il 48 hanno dato a loro il 55% del territorio. Poi con la guerra loro hanno ottenuto il 77% del territorio. Dunque lo Stato palestinese si chiedeva di nascere solo sul 22% della storica Palestina. Questo è il fatto. E loro, chiaramente uno Stato che sappiamo non ha costituzioni, non ha confini, perché loro pensano che lo Stato, Israele non ha confini perché deve in continuazione espandersi in Medio Oriente. Quindi, il loro progetto era andare dal Nilo in Egitto fino all'Eufrate in Iraq. E loro questo progetto sionista ebraico. E loro l'ostacolano. Purtroppo è quello che siamo andati, siamo finiti in noi, in questo progetto ebraico, e noi abbiamo perso la patria, insomma, qua. Noi chiediamo lo Stato palestinese sulla parte riconosciuta dall'ONU, che sarebbe il 22% della Palestina. Secondo te, cosa può fare la comunità internazionale e in che maniera per mettere fine a questo, a questa occupazione, e in che maniera Israele è collusa con l'Occidente? Allora, quello che può fare come te, però quello che diamo noi di sempre, tutta la nostra manifestazione, quello è finire il genocidio del popolo palestinese, il cessate il fuoco immediato, quello che vogliamo noi. Immediatamente, quando cessate il fuoco, e poi si siede al tavolo a trattare il futuro Stato palestinese, accettare l'idea della nascita dello Stato palestinese. Perché noi diciamo, noi nostra manifestazione che facciamo noi in Friuli, in Veneto, abbiamo un grande slogan sempre che sta in testa al corteo: l'ultimo giorno d'occupazione sarà primo di pace, primo giorno di pace in Medio Oriente. E come si nasce lo Stato palestinese? Attraverso la volontà dei palestinesi, e fate decidere ai palestinesi, non decidere per loro come deve nascere lo Stato. Deve nascere lo Stato con bene e dignità, come tutti gli Stati presenti. Vuol dire avere un porto, avere un aeroporto, avere confini, avere spazio aereo, avere dignità, avere sovranità. Mentre uno Stato con qualcosa, sì, e questo è stato un vero Stato, come tutti gli stati presenti in questo mondo, insomma, questo le chiediamo a noi. Hai appena citato appunto le manifestazioni di piazza. In questo periodo ce ne sono state numerose e sono state anche molto partecipate. Il popolo a gran voce chiede un immediato cessate il fuoco. Le istituzioni, d'altro canto, però, hanno sempre risposto a questa richiesta o in maniera sterile, o comunque addirittura in alcuni casi mostrando i manganelli, di reprimere questa richiesta. Come mai, secondo te, cosa c'è che frena, in questo caso il governo italiano, ma possiamo parlare anche dei governi precedenti, a prendere voce e denunciare i crimini di Israele? E quello che frena lo Stato italiano, purtroppo non è mai iniziativa, segue quello che dice lo Stato americano. Quando gli americani dicono una cosa, l'altro comincia a seguirla. Se gli americani sono, soprattutto all'ONU, si è visto questo fatto qua, votano sempre che contro il cessate del fuoco, contro la tregua umanitaria, l'Italia si astiene. Per due volte si è astenuta. E praticamente non c'è una vera volontà italiana, ma la volontà quella che segue è la volontà degli americani. L'Italia segue gli altri, questo qua. E purtroppo le manganellate, quelle che noi, fatte veramente, quelle che abitate a Pisa e a Firenze anche, sono state manganellate degli studenti minorenni, parliamo di queste qua. E quelli che l'hanno manganellate, praticamente hanno corporatura al livello di loro. Bastava fare bloccarli per non andare avanti in realtà questo. Minorenni sono andati a manifestare con una manifestazione volontaria, E questo quando critichiamo il governo italiano, perché ci impedisce la manifestazione spontanea e volontaria verso il popolo palestinese qua. Perché con i manganelli non solo non sono un problema con i manganelli, erano degli studenti minorenni, bastava dialogare con loro, che colpa hanno avuto? Non hanno avuto l'autorizzazione. Per le manifestazioni spontanee non serve l'autorizzazione, comunque avessero trattati come degli adulti. E che insegna a noi, insegna a scuola, per esempio, no? Che educazione civica noi diamo ai nostri minorenni con la cultura del manganello, questo fatto qua. È una cosa veramente non capita su un altro paese. Mi ricordo anche quando il presidente Meloni è andata in Canada, a un certo punto lei e il primo ministro canadese dovevano andare, mi sembra, in un museo da qualche parte, sono state bloccate dai manifestanti pro-Palestina e là non sono manganellati. E loro sono tornati indietro, hanno lasciato questa visita qua e i manganelli non sono mai visti. L'altro giorno era la manifestazione, la Presidente Meloni è arrivata a Pordenone per la firma degli accordi di finanziamento e noi, Comitato Palestinese del Friuli, insieme agli altri attivisti del posto, abbiamo fatto manifestato contro. Eravamo lontani da lei, fa contro 200 metri, no? Abbiamo cercato di avanzare solo un briforma e siamo trovati praticamente una fila di poliziotti tutti corazzati, tutto con le manganelle, con i caschi, con gli scudi, erano pronti proprio a attaccarci. Ovviamente noi siamo avanzati, sapevamo con le conseguenze, era solo un atto, solo dimostrativo per far vedere come la forza dell'ordine è svolta tutto quanto pacificamente, non è successo nulla. Da dire che in Italia noi palestinesi finora abbiamo organizzato quasi più di 800 manifestazioni e tutte sono andate pacificamente, non è mai successo nulla in questa pacificazione. Anche quelli di Pisa e di Firenze, se non avessero intervenuto loro, sarebbero concluse pacificamente anche queste manifestazioni. Sì, certo. Purtroppo continua a esserci una narrazione unilaterale che vuole far vedere gli israeliani come vittime, i palestinesi carnefici, ma poi i fatti ci raccontano tutt'altra storia. E quest'ultima aggressione è una delle tante che dura ormai da anni. Da questo punto di vista volevo chiederti, tu sei nato in Palestina, sei palestinese, cosa vuol dire nascere e vivere in un paese sotto occupazione? Una cosa particolare, perché nasce uno stato sotto occupazione vuol dire che non avere dignità, non avere le libertà, avere sempre i padroni sopra di noi, non essere padroni della nostra decisione, questo qua, non avere diritti, una volta devi chiedere qualcosa al nemico per poter andare avanti nella vita. Vede un paese bloccato, non ha sviluppo perché è sempre ostacolato dall'occupazione militare. Poi sempre ogni giorno vede questi qua carri armati entrano nelle città, distruggono le strade e soprattutto quello che è pratica il governo israeliano, gli omicidi mirati, questi qua, e loro non hanno la costruzione delle leggi, non hanno la pena di morte loro. Dopo non esiste la pena di morte in Israele, però la pena di morte la fanno immediatamente, senza nessuno se ne pensa che questo qua è un terrorista, arrivano soldati e lo uccidono immediatamente. Se il soldato non arrivano, lo mandano in drone direttamente a casa sua, uccidono i suoi familiari. La sentenza è immediata, allora per questo fatto loro non hanno la pena di morte loro. E non vivere sotto occupazione vuol dire vivere uno stato di oppressione, perché vivere uno stato in cui hai una feroce dittatura militare. E vediamo come sono finite tutte le dittature militari in Sudafrica, in Spagna, in varie parti del mondo, noi abbiamo questa dittatura militare. In altre parole qua, posso raccontare il fatto della donna palestinese di Gerusalemme, si chiama Ahed Tamimi, una bella ragazza bionda, e praticamente a un posto di blocco due israeliani l'hanno fatto, facevano dei complimenti spinti a lei, lei le ha scappeggiate tutti e due. E beh, questa qua è stata condannata a 8 mesi di galera. E poi dopo l'hanno perseguitata, l'hanno fermata e sequestrato il telefono. Hanno trovato sul telefono dei messaggi di Facebook e pro-Palestina, è stata condannata a 15 anni di galera. È stata liberata con l'accordo degli ostaggi, con le persone degli ostaggi. Un'altra di Gerusalemme si chiama Isra Jabis, uscita di casa per andare a lavorare a Gerusalemme. Suo marito ha detto prende la bomba del gas vuota mentre passava i bruttelli a riempire. Nella strada aveva una macchina vecchia, ha avuto un problema la macchina, l'impianto elettrico ha preso fuoco. Lei si è fermata, è andata a chiedere aiuto. Purtroppo l'aiuto ha chiesto alle persone sbagliate, erano dei soldati. Soldati cosa hanno fatto? L'hanno preso nella macchina, l'hanno chiusa, il fuoco l'ha rovinato tutta la faccia, e bruciacchiata, tutta quanta deformata, e poi dopo loro l'hanno presa, hanno visto che c'era la bomba del gas, hanno detto, allora tu stavi facendo un attentato contro di noi. Ha detto, ma come la casa vuota questa qua, è stata condannata a 16 anni di galera, è stata liberata con Ahed Tamimi, con l'accordo di liberazione degli ostaggi. E questo vuol dire, ogni cosa che si fa sotto coperzione è ancora semplicemente finire in galera, oppure avere la casa distrutta, vengono a demolire la casa, ogni cosa che suona, lancia un sasso per esempio, una semplice protesta, e vengono loro, ti condannano anni di galera e possono venire benissimo e distruggere la casa. Loro hanno la politica delle demolizioni delle case, ognuno va a attaccare un militare, magari una singola persona, e lo fanno pagare il prezzo alle famiglie. Le famiglie perdono immediatamente la casa. E questo è che capita tutti i giorni là. Questo vuol dire vivere una situazione in cui d'altra parte è talmente impossibile che è immaginabile da un'altra parte in cui vivere. Questo. Ti ringrazio, Mario. Hai dipinto un quadro esaustivo e anche agghiacciante di quello che è vivere in Palestina sotto occupazione dello Stato di Israele. E ti volevo chiedere, proprio legandomi a quello che hai appena detto, ci sono centinaia di arresti anche solo per manifestare il proprio dissenso in Palestina. Di tutti questi arresti condotti nelle carceri israeliane non si hanno mai notizia, e in barba a ogni legge internazionale non vengono neanche, come dire, non viene neanche tenuto conto del minimo dei diritti umani. Tu hai notizie di cosa sta succedendo adesso da questo punto di vista? No, purtroppo, perché Israele viene considerata un paese democratico perché vanno a votare quelle schede, però nessuno dice in televisione, soprattutto sulla rete media, sulla RAI, che questo qua, la loro democrazia vale solo per gli ebrei, è una democrazia razzista, solo per quella razza, come in Sudafrica valeva quella volta democrazia solo per i bianchi. Loro praticamente l'arresto riempiono loro prigione, soprattutto la prigione di Ofer, che è a Gerusalemme, la più grande, da arresti così, se li chiamano arresti preventivi, se non sono una prova. Se vogliamo qualche anno preventivo, prendono a caso le persone, oppure vedono messaggi che spedisce dei messaggi su Facebook o qualcos'altro, li mettono subito in galera in attesa del processo, possono aspettare anche anni e anni, anche in galera, in questo modo qua. Infatti qua, quando sull'accordo degli ostaggi per uno soldato israeliano e il nostro combattente a Gaza chiedono la liberazione di 100 persone, no? Il discorso è semplice, perché queste 100 persone, quelle che chiamano liberazione, sono in galera senza nessuna accusa in realtà, non sono accusate di nulla questa qua in realtà. Vengono soprattutto alle 3 di notte, loro preferita, loro hanno preso il 3 e mezza di notte, vengono a casa, basta che sia un minimo sospetto, tu vai direttamente in galera, questo qua. Poi se andatissimo in galera, sono minorenne anche. Nessuno sapeva di questo. Quando è stato il scambio dei prigionieri la prima volta, è venuto fuori che la resistenza ha lasciato dei minorenni israeliani in cambio di minorenne palestinesi. Allora Israele sta arrestando dei minorenni. Minorenne parlo, non è che inferiore a 18 anni, che quelli sono adolescenti, inferiore a 14 anni che sono. Gente anche di 12 anni che sta in galera in Israele qua. Perché loro non considerano noi come esseri umani. Noi infatti parecchie volte in manifestazione diciamo quando nasce la pace. La pace nasce quando la vita di un bambino palestinese vale come la vita di un bambino ebreo. Quando si uguagliano la vita del bambino del palestinese uguale al bambino ebraico, vuol dire che è il momento di fare la pace. Se queste e quelle vite non sono uguali, due pesi, due misure, la pace non arriva a questo. Loro vogliono cancellare un'identità del popolo palestinese. Questo qua. Li mettono in galera, è come niente, non c'è sta bocca a finire in galera in Israele, in realtà. Bastano anche parecchi occidentali sono in galera per semplice dissenso, non solo che sia palestinese, poi non guardano che siano musulmano o cristiano, sono tantissimi cristiani in galera, allora non frega nulla che siano questi, basta che siano palestinesi questi. Grazie Amer, io prima di salutarti volevo chiederti un'ultima cosa, ovvero in che stato di salute è la resistenza palestinese oggi e che significato ha la resistenza palestinese? Allora, da dire praticamente dal 1948 sono scoppiate tante guerre tra i paesi arabi o la resistenza palestinese e Israele. Il maggior paese in cui è impegnato il quarto esercito e più forte al mondo è proprio in questo periodo qua. Fa conto la striscia di Gaza 365 metri quadrati. Io vivevo a Pordenone, a una grandezza di 2300 metri quadrati, vuol dire che di Gaza quasi un decimo, un piccolo striscia di terra lunga 18 km e larga 6 km e stiamo dando torcere al popolo all'esercito più forte del mondo, non riesce a sterfare a convincere la resistenza palestinese, che è talmente organizzata, che se la prende con la popolazione palestinese. Perché dicono, perché voi portate la polizia palestinese? Perché non riusciamo a prendere i vostri combattenti, non riusciamo a prenderli. Perché talmente vuol dire che la grandezza del terreno non conta, conta la volontà. Perché noi combattiamo per la libertà, loro combattono perché sono costretti a andare nell'esercito, sono costretti a farlo. Quando ritirano una truppa da Gaza per il cambio, quelli festeggiano perché siamo salvati, fanno una grande festa. Perché noi combattiamo perché abbiamo deciso a combattere. La resistenza palestinese non è mai più forte di adesso, sarà ancora più forte la resistenza palestinese. Perché tutti i massacri che fanno, chi è sopravvissuto a questi massacri sa cosa vuol dire l'occupazione. Perché noi perché combattere per noi in realtà è un dovere per ottenere la libertà. Mi ricordo anche l'intervista in passato che abbiamo risumato di Andriotti e di Craxi. Infatti Craxi e Andriotti dicevano che il popolo palestinese aveva il diritto di combattere. Poi aveva detto, mi ricordo Andriotti, che magari combattere non porta alla pace, sono altri metodi per ottenere la pace, dove diceva Giulio Andriotti quella volta, però ha detto un diritto del popolo palestinese a combattere l'occupazione, perché l'esercito l'occupazione israeliana del terrorismo palestinese non è altro che un terrorismo di Stato. Noi ci chiamano terroristi, noi combattenti, perché ricordiamo che tutti i movimenti di resistenza nel mondo all'inizio sono sempre stati chiamati terroristi. Anche i nostri partigiani italiani, questo è italiano, insomma da 40 anni che vivo qua io, erano considerati terroristi dai fascisti. Anche lo stesso presidente Martini era considerato terrorista dai fascisti, questo qua. anche Nelson Mandela era considerato un terrorista, perché che va contro il potere, contro lo stato opprimente, viene tappato come tallonato come terrorista. E quello che ci fa cioè, racconta sempre i telegiornali italiani, Mediaset, Rai, quando parlano di palestinesi combattono il Bagno, è stato ucciso un terrorista, perché emanazioni del governo americano, perché Israele, adesso governo americano, li chiamiamo terroristi, e tutto il mondo occidentale, purtroppo, con qualche distinguo delle Spagne, per fortuna, seguono l'indirizzo americano, perché l'America purtroppo riesce sempre a mettere in fila tutti i paesi occidentali, in qualsiasi guerra che la fa. L'abbiamo visto in Afghanistan, sono tutti quanti andati a combattere con loro, simbolicamente, perché gli americani non hanno bisogno di andare a combattere con loro, in realtà hanno forse più che sufficienza, insomma. In Iraq è abitata la stessa cosa qua, in Bosnia e Erzegovina è abitata la stessa cosa qua, riescono sempre gli americani. Quello che hanno fatto in altre parti lo stanno facendo anche in Palestina qua. Loro stanno trabultando gli aiuti via aria, che non sono mai sufficienti, sono pericolosi, non capisco perché non lo fanno entrare per via terra questi qua, c'è il confine, basta dire a Israele di aprire il confine, a bombardare questo confine, adesso vogliono fare un porto, gli americani ultimamente dice facciamo un porto per portare l'aiuto a Gaza, no? Poi nel frattempo, oltre a fare il botto, dice noi diamo sempre l'aiuto militare ad Israele. Dunque danno le armi per ammazzare i palestinesi, dall'altra parte danno il cibo per i palestinesi. Però il genocidio veramente che si fa, che sta facendo a Gaza, è una cosa enorme, perché li stanno usando loro l'arma della fame. Oggi sono morte 3 bambini palestinesi nel sud di Gaza per fame. Ogni giorno muoiono una 50 di persone per fame e altri un centinaio per bombardamenti indiscriminati israeliani. Usare l'arma della fame, dell'affamamento del popolo è considerato un genocidio. Il genocidio non è che vuol dire che bisogna uccidere milioni di persone per chiamare genocidio. Il metodo in cui vengono uccise queste persone, questo metodo qua, questa è la definizione di genocidio. Ti ringrazio, Mer. Ti ringrazio tanto per il tuo contributo e per la tua partecipazione a nome mio e di tutta Radio 4. Grazie a voi per la possibilità che mi hai dato di esprimermi. Grazie a voi. Tutti i venerdì, dalle 13 alle 14.30, su Eustachio, Onda Rossa, Quar, Wombat, quattro radio autogestite trasmettono in simultanea. Ponte Radio. Uno spazio di collegamento tra radio auto organizzate.